fischia la freccia nel cuore si pianta e scambio te per lei. Dal frigorifero luce che inonda la sua assenza ormai. Dormi dolce quasi come lei. E i capelli d'oro tu li hai. Si è petrificato l'amor mio. Ma il passato uccidere non puoi. La nostra ultima fotografia e c'era lui più là. Occhi d'amante tu non penserai, d'amarmi in società. Le scarpe in mano mi ha svegliato, quante pieghe sul vestito hai. Dimmi un po' dove sei stata, dove vai. Guarda che ti amo e morirei. Cos'è caduto, cosa guardi giù? Cosa vuol dire non ti voglio più? Basta, sono un uomo adesso vai. Se nella notte qualche donna c'è, non giudicarla vale più di te. Navigatore che torna al presente, si lava il sale poi. Sogni e sirene mi passano accanto, ma la mia donna sei. Ti scopro, ti accarezzo e tu non vuoi. È lei che morde il frutto fra di noi. Il nostro amore adesso è un filo che dal cielo scende fino a qui. Non spezzarlo, io da solo morirei. Guarda che ti amo come sei. Ora i suoi occhi sono due falò, ma sto bruciando a te l'amore d'oro. Lascerai, ne gira soli la tua anima.